wa idha suhufu sitayuni dereli din nushirata di fontama dereli kaku de jia pe windi don makala hino mari dereli ko tawata golle jimuro ni fop hino winda don mo iboni tumande di non fontoya.